Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, la cronaca di questa giornata economico-finanziaria. Ci concentreremo oggi, come promesso, anche sulla normativa sul Made in Italy, un tema delicato, molto delicato, che ha visto anche esigenze diverse tra i grandi produttori e i piccoli produttori, i piccoli artigiani. Normativa sul Made in Italy modificata a settembre da un decreto all'interno del decreto Ronchi, cercando di tenere assieme l'esigenza di tutelare quelli che producono tutto in Italia con però l'esigenza di tutelare anche i gruppi che parte della produzione ce l'hanno all'estero, e soprattutto ricordando che in Italia praticamente è difficilissimo che anche il prodotto sia italiano. Noi non siamo produttori di materia prima di nessun genere, anche nel settore alimentare, ma quello è un altro discorso, perché lì c'è la tracciabilità per motivi anche igienico-sanitari. Ma dicevo, tenendo presente che noi non siamo un paese produttore, siamo un paese trasformatore, quindi mettere un obbligo troppo stretto, troppo forte sulla provenienza delle merci ci danneggerebbe. Non lo fanno altri paesi europei, per cui occorre anche che l'intera azione sia concordata, concertata con quella europea. Ne parleremo in apertura, perché è un tema delicatissimo che si inserisce nel tema più complessivo della tutela dei nostri prodotti contro le contraffazioni, ma anche nel valorizzare i prodotti italiani che vengono fatti con manodopera italiana rispetto a prodotti che di italiano magari hanno solo il nome ma non certo la produzione. 349-238-6666 per i vostri sms. Oggi ci occuperemo anche di accordo sull'agroalimentare, raggiunto infatti un'intesa con la Francia. Di borse, come sempre, sono in correzione, devo dire, i mercati meno 0,5, quello che c'è da adesso l'America, Parigi perde l'1,1, Francoforte l'1,2, Londra meno 0,80, Milano si conferma anche nei cali tra le migliori, meno 0,7% in questo momento Piazza Affari, con l'Automatica che guadagna il 3,1%, Prismia l'1%, come Snam, Retegas e Ansaldo, mezzo punto percentuale di rialzo per Saipem ed Eni, anche Campari. Fronte opposto, Pirelli perde il 3,1, Bulgari il 2,6 e anche Fiat. Il 2,2 lo perdono Exor e Impregilo e Autogrill. L'1,80 lo perde Mediolanum e anche Telecom Italia. Intesa San Paolo, 1,7% del calo del Banco Popolare e di Unicredito. Un punto e mezzo lo cede Atlantia, l'1,3 Enel, Mondadori e Monte dei Paschi. Euro a quota 1,48,15. Ci occuperemo anche di petrolio e di oro, perché il petrolio è a $74 al barile da un lato, dall'altro l'oro ha toccato un nuovo record a $1,068 l'oncia a Londra. E allora, siccome molti non si spiegano come mai un bene così rifugio come l'oro vada a record storico nel momento in cui le borse sono così forti da inizio anno, il sospetto, ed è solo un sospetto, è che alcuni operatori sul mercato si stiano ricoprendo, si stiano proteggendo. E ieri ne abbiamo parlato con un indicatore molto importante, qual è il Baltic Dry Index, ossia che misura il costo del nolo di un cargo, perché da sempre più l'attività economica è in espansione più costa affittare un cargo per trasportare merci. Ebbene, abbiamo visto che dopo un recupero a giugno, questo indice, che è un indice mondiale, quindi fa la media di tutti i trasporti mondiali, è di nuovo calato pesantemente, e che significa che nel mercato vero, quello del trasporto dei beni e delle cose, non c'è questa idea che la ripresa sia tumultuosa, sia così forte. Allo stesso modo i mercati sono in rialzo di un 22-23% da inizio anno. C'è chi inizia a dire stanno speculando e usciranno presto, gli investitori più speculativi usciranno dalla borsa. Vedremo di capire se anche a questo si aggancia l'andamento del prezzo dell'oro. 349-238-6666 per i vostri sms e le altre notizie in breve. Ecco qua una notizia appena arrivata: il dollaro è sceso a nuovi minimi dai tempi del crack di Lehman Brothers, che alcuni di voi ricorderanno, immagino, ossia quello che è successo a ottobre, tra settembre e ottobre dell'anno scorso. Siamo verso quota 1,49, 1,48 e 12 in questo momento. Ne parleremo quando faremo anche l'approfondimento sul petrolio ed oro. Dei record di oro e comunque della forza del petrolio abbiamo detto. Per fortuna si è arrestato il crollo dei prezzi nei campi, quindi nella prodotti della nostra agricoltura, ne parleremo anche in questo caso più avanti, meno 12% rispetto a un anno prima, però si è parzialmente ridotto come calo, resta molto pesante rispetto a un anno prima. In Germania invece la fiducia degli investitori è calata in maniera sorprendente in attesa ad ottobre. L'indice ZEW è sceso da 57,7 a 56 punti. E poi sulla falsariga di quello che è già successo ieri in Gran Bretagna, cioè la Gran Bretagna ha fatto sapere che avvierà tutto un programma di vendite, di privatizzazioni per rimettere a posto il deficit. Ebbene, oggi in Belgio il governo ha presentato il conto alle banche e alle assicurazioni, ha chiesto 1,5 miliardi in 3 anni come contropartita degli aiuti ricevuti a suo tempo, cioè un anno fa, per il loro salvataggio. E poi il settore finanziario dovrà contribuire in maniera ancora più attiva al risanamento dei conti pubblici belgi, per cui le quote saranno 200 milioni di euro che le banche dovranno versare nel 2010, 670 milioni nel 2011 e 540 milioni nel 2012. Calano le entrate fiscali italiane, ma rallenta il calo rispetto a luglio. Nei primi 8 mesi alla fine il calcolo è di 2,5% in meno, pari a 260 miliardi complessivi. E a gennaio-luglio è stato un meno 2,9, nel mese di agosto è rallentato un meno 2,5. Che cosa è calato di più? Beh, l'IVA ha fatto un meno 10% nei primi 8 mesi del 2009 rispetto ai primi 8 mesi del 2008. L'IRES, l'imposta sui redditi delle società, anche qui immaginabile vista la difficoltà economica, ha fatto un meno 15% rispetto ai primi 8 mesi del 2008. L'ex IRPEF, l'IRE, ha fatto un meno 1,1%. E il debito italiano ha toccato un nuovo record ad agosto, 1.757 miliardi di euro. È difficile anche per noi leggere il debito italiano come diffuso oggi dal bollettino statistico della Banca d'Italia. E sempre la Banca d'Italia ha chiesto, per voce del governatore Mario Draghi, che si torni a ragionare di un innalzamento dell'età pensionabile e che per contrastare la povertà tra i pensionati si facciano iniziative selettive con strumenti di natura assistenziale per andare a integrare le pensioni più deboli. Tra l'altro Mario Draghi ha anche elogiato l'attività del ministro Sacconi, ha detto occorre dare merito al ministro Sacconi di aver messo in campo una quantità molto ampia e assolutamente adeguata di misure per superare la crisi. E lo stesso Sacconi oggi ha annunciato che a breve arriverà anche la riforma degli ammortizzatori sociali, ma solo dopo che il paese sarà uscito dalla crisi. Parleremo nella seconda ora del programma anche dei dati INPS e INPDAP. Adesso partiamo con il primo tema, vedo già molti messaggi. È chiaro a tutti che occorre tutelare i piccoli produttori, ma anche le imprese che hanno delocalizzato, che producono anche all'estero parte della produzione, e quindi il tema è, come da molte di voi chiesto, il Made in Italy alla luce della modifica fatta al decreto Ronchi. Attenzione, lo dico già a chi scrive, quando parliamo di Made in Italy in questo caso è escluso il settore agroalimentare, che per motivi anche di igiene e di salute ha una tracciabilità tutta sua. Ne abbiamo parlato più volte: contraffazione, volume dei falsi che vale 7 miliardi, un danno per l'Italia di 5 miliardi all'anno. Ecco perché, assieme alla necessità di tutelare le produzioni fatte nel territorio rispetto a quelle che hanno solo il nome dell'Italia. Ecco perché a metà agosto è entrata in vigore una norma che, in presenza di un prodotto a marchio italiano ma realizzato in tutto o in parte all'estero, imponeva l'obbligo di indicare in modo chiaro la provenienza di questo prodotto. Molte polemiche, perché si diceva siamo gli unici a farlo in Europa, ci autodanneggiamo se uno ha una parte del prodotto realizzato all'estero, ma poi il disegno, la commercializzazione e quant'altro vengono fatte, e anche la progettazione vengono fatte in Italia, perché farsi del male da soli? Si rischiava di penalizzare paradossalmente proprio le medie e grandi imprese italiane. A settembre il decreto Ronchi ha cancellato l'obbligatorietà e ha previsto che al vecchio marchio Made in Italy, che esiste tuttora, possa essere aggiunta un'addizione ulteriore: 100% italiano, oppure si può scrivere interamente italiano. Maggiori dettagli, il prodotto deve essere fatto in certi modi. Maggiori dettagli da chi ha seguito da vicino questa parte del decreto, il vice ministro dello sviluppo economico Adolfo Urso. Buonasera. Buonasera, grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie anche al vicepresidente Confindustria con delega all'internazionalizzazione Paolo Zegna. Buonasera, presidente Buonasera. Zegna. E al segretario generale della Confartigianato Cesare Fumagalli. Buonasera anche a lei. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, vice ministro, l'obiettivo e la filosofia del decreto Ronchi, quindi di rendere non obbligatorio ma facoltativa l'indicazione del 100% italiano, ha come, diciamo, filosofia dietro che cosa? Non farsi, cioè tenere assieme due cose senza farsi troppo male, senza essere masochisti? Il primo obiettivo, direi, era evitare l'inflazione europea, che quella norma avrebbe verosimilmente comportato, perché la politica commerciale e quindi le norme sulle etichettature del cosiddetto paese d'origine dove un prodotto è stato realizzato sono di competenza esclusiva dell'Unione, perché riguardano norme che devono essere appunto comuni per tutte le dogane e per l'intero mercato interno europeo. Nessun Stato può legiferare in materia autonoma su questa materia. Non a caso la norma che ha cambiato quel testo legislativo approvato dal Parlamento è stata inserita nel cosiddetto decreto Ronchi, che è un decreto che riguarda le materie sottoponibili ad infrazione. In che direzione l'ha modificata? Da una parte, ovviamente, nel cancellare quell'obbligo che era appunto sottoponibile a infrazione europea e che avrebbe avuto comunque un effetto boomerang sulle nostre imprese, perché valeva per i prodotti italiani realizzati dalle imprese italiane all'estero, ma non per esempio per i prodotti francesi, tedeschi o inglesi realizzati dalle loro imprese all'estero e commercializzati in Italia, che non avrebbero avuto lo stesso obbligo. Per intenderci, la Fiat realizzata in Turchia, per esempio, avrebbe avuto il Made in Turkey, ma la Renault realizzata nello stesso paese no. Abbiamo scelto di evidenziare e valorizzare il prodotto interamente italiano. Il Made in Italy non ho e non può essere un prodotto interamente italiano, perché il Made in Italy o il Made in France o un Made in Germany può essere apposto in maniera facoltativa da qualunque impresa che realizza un prodotto in uno dei paesi europei se quel prodotto è stato realizzato in misura prevalente in quel paese, comunque l'ultima fase di trasformazione. Molti dei prodotti italiani sono fatti con materie prime non italiane. Ecco, quindi la legge prevede a livello europeo che io possa scrivere Made in Italy o Made in UK o Made in France se l'ultima parte della lavorazione di un prodotto, diciamo, della catena è realizzata in maniera sostanziale, prevalente in valore, è fatta in Gran Bretagna, Francia o Italia, perfetto. Ed è facoltativa, perché per la norma europea è facoltativa, nel senso che io che lo posso fare, che ho i requisiti per farlo, ho il diritto a metterlo. È ovvio che io, se io non ho i requisiti per farlo, non lo posso apporre. Nel frattempo, e purtroppo questa è una norma europea da cui ancora oggi non possiamo transigere, noi non possiamo respingere alle frontiere se un prodotto cinese o americano o russo entra nelle dogane italiane o nelle altre dogane dell'Unione senza che vi sia scritto dove è stato realizzato. Perché anche questa è una norma europea, quella sull'obbligatorietà dell'etichettatura sui prodotti realizzati in altri paesi. E non c'è questa obbligatorietà. E questo è il vero nodo di fondo che stiamo cercando da anni, di realizzare un regolamento europeo che si apposta l'etichettatura del paese d'origine su ogni prodotto, o almeno sui prodotti di alcuni settori strategici che entrano nell'Unione Europea. Posso dire agli ascoltatori che il 20 di ottobre abbiamo una seminario assemblea a Strasburgo con i parlamentari europei che si battono per questa misura nel Parlamento di Strasburgo insieme al commissario europeo al commercio, l'Aston, e ovviamente il sottoscritto, perché penso di essere in condizioni di realizzare questo regolamento nell'arco delle prossime settimane, mesi. Nel frattempo che ciò accada, cosa abbiamo fatto noi con quella norma inserita nel decreto antinfrazione, onde evitare appunto l'infrazione europea? Abbiamo deciso di differenziare il Made in Italy, che comunque non può essere normato con la legge nazionale ma risponde alle norme europee sull'indicazione d'origine, dal prodotto interamente italiano. E abbiamo definito che un prodotto interamente italiano è quello che prevede che tutte le fasi di lavorazione, dalla ideazione al confezionamento, sia fatto interamente in Italia. Ovviamente abbiamo escluso le materie prime, perché altrimenti il 99% della produzione italiana mai avrebbe potuto avere un'etichettatura interamente italiana, perché dai prosciutti molto spesso sono la carne importata, l'abbigliamento quasi sempre la lana o il cashmere è importato all'estero, nessuno avrebbe avuto la possibilità, al cuoio, pellame perché fa la calzatura. È ovvio che la materia prima in un paese come il nostro, che scarseggia di materia prima storicamente, è in gran parte importata dall'estero. In questo modo abbiamo dato una normativa che illustra un prodotto ove risponda a questi requisiti, può essere definito interamente italiano e può avere un'etichettatatura di questo tipo e quindi avete cercato, promosso come tale. Avete cercato di tenere assieme l'esigenza, come si diceva, di tutelare chi produce in Italia con la normativa europea che non ti permette di porre questi vincoli, ma B, anche il non farsi troppo male, perché è chiaro che se col Made in Italy entrava il concetto di chi di essere obbligati a scrivere Made in Italy se tu l'avevi prodotto in Italia tutto, oppure se invece avevi una parte della produzione all'estero non potevi o dovevi scrivere, come lei ricordava, Made in Turkey, facendoti del male non solo verso i tuoi concorrenti italiani ma anche verso i concorrenti stranieri, sarebbe stato un boomerang, un atto di masochismo. Ministro, poi verremo alla parte che mi sembra però cruciale, cioè finché non vi sarà una legge europea, una etichettatura europea che permetta di dire che cosa è prodotto in Europa e con che criteri, e obbligare chi produce all'estero a scriverlo, mi sembra che tutti questi siano tentativi importanti, necessari, ma parziali, perché poi sempre nell'Unione Europea viviamo. Comunque vorrei sentire il vicepresidente Zegna, che ha la delega all'internazionalizzazione. Alla fine, presidente Zegna, si è arrivati a un compromesso tutto sommato accettabile? Ma io adesso, seguendo con Vice Ministro Urso le cose anch'io da tanti anni, devo dire che ha fatto una spiegazione molto completa di quello che è stato delle cose, definendo qual è la strada maestra sulla quale noi sappiamo che si sta battendo su dei principi che noi vogliamo che passino, che siano effettivamente identificanti in modo preciso l'origine di quei prodotti che effettivamente hanno bisogno e vogliono la valorizzazione dell'origine. Detto questo, ecco, questi altri interventi che sono stati fatti, come lei ricordava, da lui in avanti, sono delle cose che noi non possiamo effettivamente negare nell'obiettivo, a un certo punto, di dare ulteriore trasparenza, soprattutto al prodotto italiano, ma per i quali noi effettivamente abbiamo chiesto e spinto per la necessità che vengano approvati dall'Unione Europea, per evitare una cosa che è assolutamente controproducente per il sistema industriale italiano, che è il cosiddetto stop and go, cioè oggi faccio una cosa, poi tra 15 giorni mi viene detto che invece l'interpretazione è sbagliata, mi devo riadattare, e quindi non c'è una contrarietà al fatto di arrivare a un discorso di trasparenza. Ovviamente ci sarà qualcuno che sarà più contento e ci sarà anche qualcuno che lo sarà meno, però l'importante a un certo punto è avere una chiarezza di una regolamentazione che abbia tutte le indicazioni su come deve essere interpretata e su quella poi non ci siano ulteriori cambiamenti, perché credo che sia una cosa assolutamente impensabile quella, ripeto, di questo atteggiamento di stop and go, che purtroppo effettivamente già guardando questa legge uscita nel mese di luglio qualche scompenso l'ha dato, oltre poi a essere attuata in un periodo difficile, in un periodo in cui le aziende erano praticamente in ferie e quindi con un'impossibilità anche ad adattarsi alle regole, ammesso che le avessero capite in pieno. Allora io spiego anche chi ci scrive al 349 238 6666, ripeto, Con il decreto Ronchi, l'obbligatorietà è stata cancellata. C'è la possibilità di aggiungere l'addizione sul prodotto 100% italiano oppure scrivere interamente italiano. È una facoltà, quindi è un'opzione, però una volta scelta deve valere solo per i prodotti dove il disegno, la progettazione, la lavorazione e anche il confezionamento sono compiuti e realizzati esclusivamente in Italia. Non è l'origine del prodotto, perché, e non c'entra nulla il settore agroalimentare, lo dico chi scrive, quello ha un'altra disciplina, come ricordava il viceministro Urso, perché è chiaro che noi praticamente trasformiamo tutto, dalla lana al legno, ai maiali per i prosciutti, cioè, qua produciamo gran poco, ma riguarda tutta la catena del prodotto. Tra l'altro, per chi sgarra sono previste anche sanzioni da 10 a 250 mila euro, non è più rimessa, il rispetto alle regole non è più rimesso però alla personale valutazione del produttore. E poi veniamo anche ad altri elementi, perché da Bruxelles qualche passo in avanti è arrivato. Vorrei sentire però anche gli artigiani, perché a me non piacciono le contrapposizioni tra i grandi imprenditori che hanno più interesse ad avere, avendo delocalizzato, internazionalizzato all'estero, ad avere un'addizione più europea, e voi artigiani nel tutelare solo la parte tutta prodotta in Italia. Mi sembra però, dottor Fumagalli, che in questo modo l'artigiano che fa tutto il percorso del prodotto, disegno, progettazione, lavorazione in Italia, ha la possibilità di apporre un marchio in più. Io credo che sia sempre un esercizio difficile quello di andare a messa e stare a casa nello stesso tempo. È esercizio difficile perché dire che si tutela il consumatore dando una norma chiara sulla provenienza e dire che questo invece non è in vigore, io davanti mi abbia 30 secondi di pazienza, leggo il sesto comma dell'articolo 16 che è vigente del decreto salva infrazioni, che dice: costituisce fallace indicazione l'uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise e evidenti sull'origine e provenienza estera o certificati. Quindi ad oggi il decreto legge che è in conversione dice quello che ho letto adesso, che io non voglio interpretare e ho volutamente letto. Ed è la seconda parte dell'articolo 16. Poi c'è la prima parte che si riferisce al 100% made in Italy e valgono tutte le considerazioni fatte dal viceministro Urso. Ma questa seconda parte non ha cancellato la previsione contenuta nella legge 99, l'ha parzialmente modificata, ha tolto la rilevanza penale del 517 e l'ha trasformata in una contravvenzione punita con sanzione amministrativa da 10.000 a 250.000 euro, però è tutt'oggi in piedi. Resta la seconda partita, che è quella del mitico regolamento nuovo sul Made In, che è partita in corso, però finora è vigente comunque la norma sulla prevalente fabbricazione. Non basta il confezionamento finale a farlo diventare, perché poi anche qui la nostra Cassazione ha in una sentenza stabilito che non importava più il prevalente, l'importante fosse che avvenisse una lavorazione. Allora, noi consideriamo positiva la norma introdotta dalla legge 99, siamo divenuti poi ad una soluzione compromissoria che è quella contenuta nell'articolo 16, che intanto continua ancora a dire che costituisce fallace indicazione, quindi punita quando un marchio italiano faccia pensare che il prodotto sia fabbricato in Italia e così non sia. È la ragione per cui dicevo non mi ritrovo esattamente nelle cose che sono state dette. Noi ovviamente tuteliamo sì il 100% made in Italy, che potrà applicarsi, lo diciamo noi per primi, a limitata gamma di prodotti, non sempre disegno, progettazione, lavorazione, confezionamento, che sono le quattro fasi descritte nell'articolo 16, si ritroveranno per tutti i prodotti, per cui parliamo di una nicchia molto più ristretta di mercato. Però noi ci teniamo, lo dico senza equivoci, affinché, per un principio semplice, che il consumatore possa sapere la provenienza. Io credo che questo mi stupisce anche che provochi così tanto sconquasso. No, io non adesso... si può esordire dicendo anche noi vogliamo la trasparenza, però forse o non è vera la prima o non è no, quello che, vera no, quello che dico io però con molto realismo, adesso sentiamo anche gli altri due ospiti, è la cosa seguente: noi dobbiamo tutelare il prodotto che viene realizzato come progetto, lavorato, commercializzato, disegnato in Italia e quindi anche confezionato per alcuni generi. È chiaro che se iniziamo a mettere che me lo dico molto tranquillamente che il prosciutto viene dalla Polonia, quello è un problema di tracciabilità alimentare, che è un problema di sicurezza alimentare. Però io non capisco perché se un prodotto viene progettato, lavorato e disegnato in Italia, magari la materia viene importata dalla Turchia, mi sembra che ci facciamo un po' del male a scrivere Made in Turkey, oppure a non poter mettere Made in Italy, anche perché se poi i francesi, gli spagnoli e gli svedesi possono farlo, veramente diventa un atto di masochismo, pur capendo, dottor Fumagalli, che chi invece prende anche il legno in Italia, prende anche la lana in Italia, possa aver voglia di scrivere 100% italiano. No, ma quella neanche la norma lo prevede, né noi lo cerchiamo, quella della materia prima, sarebbe e difficile allora, per gli orafi, allora non basterebbe con mettere Vicenza che prendano l'oro dal Po o dall'Arno. Beh, anche perché insomma andremo avanti poco, ma allora non vi basta il poter mettere per l'orafo, per l'artigiano in generale, 100% italiano, interamente italiano, come aggiunta del fatto che è stato realizzato completamente nel processo in Italia? No, guardi, secondo me la questione è molto divisa in due. Una è la questione dei prodotti 100% made in Italy, marchio volontario, mm-hmm. tutte le condizioni che sono sì. già state dette. L'altra è la norma generale che debba prevedere per i consumatori la trasparenza se il prodotto a marchio italiano non è fatto in Italia. Poi la scriviamo come meglio vogliamo, ma se si vuole perseguire questo concetto, se non lo si vuole perseguire, deve essere esplicitamente detto, non si intende tutelare questo aspetto del made in. Allora, mi sembra chiaro che, ripeto, secondo me il compromesso che tutela, che permette a chi produce, confeziona, disegna, progetta il prodotto in Italia, gli permette di scrivere 100% italiano o totalmente italiano, sia già un buon compromesso. È chiaro che l'Italia da sola però non fa niente, perché hanno ragione gli ascoltatori che scrivono: ma se un cinese produce, certo che se produce confezione in Italia e disegna in Italia può scrivere Made in Italy 100% italiano, non ci sono dubbi su questo, così come finché la normativa non è europea il prodotto te lo ritrovi dentro dall'Europa e tu in realtà hai solo messo un vincolo in più. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Chiudiamo l'approfondimento dedicato appunto alla tutela del Made in Italy. Attenzione, sono temi delicatissimi e in sentiero, lo dico anche a chi scrive molto stretto, ripeto, per non danneggiare quei pochi medio-grandi produttori che abbiamo e che hanno come tutti al mondo una parte della produzione all'estero, e allo stesso tempo però per valorizzare la produzione che viene fatta in Italia, il valore aggiunto che viene fatto in Italia sulla produzione. E tra l'altro su questo, ripeto, vedo molti messaggi al 349-238-6666, di tutto il ragionamento è escluso il settore agroalimentare, perché lì la tracciabilità ha anche motivi igienico-sanitari, per cui tu devi sapere da dove arriva, il caso più clamoroso fu quello della carne, da dove arriva la carne per poterla tracciare. In questo caso si dice: se tu fai buona parte del disegno, della progettazione, del confezionamento, dell'assemblamento in Italia, puoi scrivere se fai tutta la parte in Italia, puoi scrivere 100% italiano o totalmente italiano, con varie sanzioni. Mi sembra, ministro Urso, intanto vorrei un commento a quanto dicevano sia Fumagalli che complessivamente anche Zegna della Confindustria, però mi sembra che alla fine il nodo sia europeo, perché tra l'altro Cina, Stati Uniti e Canada hanno, l'America da sempre praticamente, ma hanno già introdotto la denominazione di origine per i prodotti che arrivano nel loro territorio, l'obbligatorietà, l'Europa ancora no, prego. quasi tutti i paesi, i nostri competitori al mondo, ce l'hanno da sempre, gli Stati Uniti ormai dagli anni 30, la Cina da sempre, sostanzialmente questa normativa che noi reclamiamo per l'Europa. Per capire perché questa deve essere una normativa europea, io lo dico con un dato molto semplice. Lo scorso anno circa il 14-15% dei prodotti cinesi entrati in Europa sono entrati dalle dogane italiane. Quest'anno questa percentuale è scesa al 9%. Quindi se noi facessimo la nostra normativa che adesso è obbligatoria per il territorio nazionale, le nostre dogane, etichettatura obbligatoria, sempre che questo non venga censurato, e sarà censurata dall'Unione Europea, i prodotti cinesi entrerebbero da altre dogane e peraltro già entrano da altre dogane. E noi non possiamo quindi, e comunque sarebbe del tutto inutile anche se potessimo, fare una normativa sull'etichettatura in entrata nelle dogane solo per noi. Dobbiamo farlo per l'intera Europa. Io presumo di riuscire nell'arco della prossima settimana di far definire alla Commissione europea il nuovo testo di regolamento, in modo che riprenda l'iter negli organismi comunitari, il Comitato 133. Vedremo se nella definizione dei settori che riguarderà l'etichettatura obbligatoria in entrata ci saranno, come io mi auguro e per cui sto lavorando, tutti i settori strategici del Made in Italy. Se questo riusciremo a realizzarlo, verosimilmente nell'arco di qualche mese noi potremmo costringere il Consiglio europeo a votare il primo testo di regolamento che riguarderà alcuni settori produttivi e quindi aprire la strada poi ad altri e comunque definire la questione in sede europea. Per quanto riguarda le modifiche, non c'è più l'obbligo alle frontiere, c'è l'obbligo di non indurre in errore il consumatore, secondo la norma sulla indicazione fallace che risale al 2004, indicazione fallace che può riguardare anche i marchi che inducono in errore il consumatore. E in questo caso c'è l'obbligo di illustrare al consumatore, certificandolo, dove il prodotto è stato realizzato. Beh, questo mi sembrerebbe già insomma, una prospettiva interessante. Speriamo che l'iniziativa del nostro governo e poi complessivamente anche di altri paesi, Vice Ministro, dia la possibilità di arrivare finalmente all'obbligo di anche per i prodotti che entrano in Europa di denominazione di origine e poi lasciare ai vari paesi diverse possibilità, ma avere una legislazione complessiva. Io ringrazio tutti gli ospiti, quindi il Vicepresidente Zegna, il Segretario della Confartigianato Fumagalli, il Vice Ministro Urso. Adesso ci sono le informazioni per chi è in viaggio, vedremo, non ho i tempi, non me li chiedete, non li ho capiti nemmeno io, ma insomma a breve si dovrebbe arrivare a una proposta a livello europeo e poi vedremo se da questa proposta riuscirà a uscire anche una posizione, passatemi il termine, vantaggiosa per l'Italia, cioè per quei paesi come l'Italia che fanno del made in un elemento di competizione, a differenza di altri paesi che invece producono magari a basso costo all'estero e mettono solo il marchio, ma nessuno va a vedere se è made in Sweden o made in Spain, diciamola tutta. Allora, vedo arrivare ancora molti messaggi sul Made in Italy, torneremo sul tema. Ripeto, la cosa importante, secondo me, poi chiudiamola però, è che si sia eliminato il rischio di farsi del male da soli, mettiamola così, un eccesso di zelo, un po' come il marito cornuto che si taglia quella cosa che ha più cara. Insomma, un eccesso di zelo andava a penalizzare prodotti italiani, magari perché fatti in parte all'estero rispetto a prodotti francesi, tedeschi che non avevano questo obbligo. Dare la possibilità al produttore di attaccare l'etichetta, oltre che Made in Italy, 100% italiano, totalmente italiano, perché tutto il passaggio, tranne il prodotto in sé, la materia prima, è fatto in Italia, mi sembra per ora un buon compromesso, fermo restando che finché non arriva un regolamento europeo il problema è risolto solo per metà, cioè insomma, come fermare la diga con il dito. La borsa, prima giornata di correzione da un po', nulla di grave, meno 0,7%, come sempre i mercati con Radio Core, il Sole 24 Ore. Parliamo allora di Piazza Affari, ma non solo. Nel giorno in cui l'euro si avvicina al nuovo record dal crollo e bancarotta di Lehman Brothers, siamo a 1,48,30, l'oro ha toccato un nuovo record, il dollaro quindi è sempre più debole, di questo fra poco parleremo. In questa giornata sostanzialmente Parigi ha perso l'1,1 come Francoforte, Londra ha perso lo 0,80, l'America in questo momento è invariata, Milano ha perso lo 0,80%, vediamo dove o chi ha più contribuito: Pirelli meno 2,80, Autogrill meno 2,6, Fiat meno 2,5 e Exor meno 2,2 come in pregiro, il 2% lo perde Bulgari, ma anche Telecom Italia. L'1,7 è il calo di Unicredit e di Intesa, l'1,5 quello di Atlantia, Mediolanum e il Banco Popolare, l'1,3 lo perde Enel, l'1% è il calo di Tenaris, Mondadori e Geox, ma anche il Monte dei Paschi. Fronte opposto, l'Automatica guadagna quasi il 3%, Prismian l'1,3, Ansaldo l'1,2 come Snam, Campari più 1,1, Saipem più 0,6, Eni mezzo punto percentuale di rialzo. Paolo Paronetto, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Partiamo da i due titoli opposti, l'Automatica più 2,9% e invece Pirelli meno 2,8%, anche se veniva da rialzi continui. Prego. Sì, per quanto riguarda l'Automatica, il titolo è stato in controtendenza, è stato in testa al listino per tutta la seduta in vista del risultato della gara per la concessione del Gratta e Vinci. E ieri è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e secondo indiscrezioni l'Automatica è stata l'unica a presentare una proposta all'interno del consorzio di cui appunto l'Automatica fa parte. L'ufficialità arriverà soltanto giovedì, ma sembra che le altre due società italiane, SNAI e Sisal, si siano ritirate, anche se Sisal appare intenzionata a far ricorso al TAR del Lazio chiedendo l'annullamento della gara. E gli analisti di mercato comunque hanno iniziato già a fare i conti sui benefici che potrebbe acquisire l'Automatica vincendo questa gara, e proprio su questa prospettiva ad esempio gli analisti di Deutsche Bank hanno rivisto al rialzo di circa il 20% le stime su fatturato ed EBITDA e confermato la raccomandazione buy, cioè di comprare il titolo. All'estremità opposta invece, come ricordavi tu, Pirelli ha perso il 2,78% e quasi tutti i titoli che hanno perso terreno oggi lo hanno fatto in seguito delle prese di beneficio, venivano infatti da consistenti rialzi. Per quanto riguarda Pirelli, il progresso era stato di circa il 17% dallo scorso 2 ottobre, il titolo aveva beneficiato di molti giudizi positivi, mentre il mercato continua a interrogarsi su una possibile separazione tra le attività negli pneumatici e il business immobiliare di Pirelli Real Estate. Allora, i petroliferi con il petrolio di nuovo che rialza la testa, Enel, che non è proprio un petrolifero, ma insomma è un energetico, meno 1,2%, ma è il solo perché Saipem ha guadagnato lo 0,6%, Eni mezzo punto percentuale, Snam l'1,1%. Il titolo peggiore oggi in assoluto è Gemina, meno 6%, il migliore è Tiscali, anche qui attenzione a l'andamento dell'azione disallineato rispetto a quello indicato dai diritti dell'aumento di capitale, insomma più 73%, l'abbiamo spiegato anche ieri. Allora Gemina cala del 6% e qui c'è una notizia che era su Sole 24 Ore di oggi, cioè secondo il Sole 24 Ore la controllata di Gemina Aeroporti di Roma starebbe preparando un aumento di capitale. È arrivata anche una nota della società. Sì, la società Gemina ha detto di non avere allo studio un aumento di capitale, parlando di, in questo caso appunto, di un aumento di capitale di Gemina stessa, ma non ha precisato alcunché su un possibile aumento di capitale della controllata ADR. Infatti i titoli hanno risentito per tutta la seduta proprio di queste indiscrezioni del Sole 24 Ore, secondo cui ADR domani all'interno del proprio piano di rilancio prevedrà anche un aumento di capitale dell'ordine di grandezza, secondo il quotidiano, di qualche centinaio di milioni di euro. In questo caso ovviamente Gemina dovrebbe sostenere il peso di questo aumento, quindi i titoli ne hanno risentito. Da segnalare inoltre che sui titoli di Gemina ha pesato anche inoltre una raccomandazione degli analisti di Chevrolet, che hanno tagliato il giudizio da underperform da outperform. Il titolo comunque, l'elemento principale è stato proprio quello di questo possibile aumento di capitale di Aeroporto di Roma. Aspettiamo ovviamente novità e precisazioni domani. Allora, sul risanamento il mercato si è accorto della bocciatura da parte della procura del nuovo piano di salvataggio delle banche. Se n'è accorto un po' in ritardo la notizia di ieri. Oggi il titolo perde il 5,6%. Tra i migliori invece anche Dada più 8,8, TAS più 9%, Banca Profilo più 6,20 e Milano Assicurazioni più 4,7%. Tra i peggiori invece Gruppo Coin meno 4%, Cofide meno 4,1 e l'Autostrada Torino Milano meno 4,4%. Ancora l'immagine, vi siano anche delle motivazioni legate a tutto un insieme di considerazioni, però Paolo Pronetto, sui titoli migliori invece, oltre all'automatica più 2,92, citavamo anche Prismian più 1,3%, mi sembra di vedere invece che Fiat alla fine abbia perso il 2,4%. La cito perché oggi c'è stata una valutazione del vicepresidente della Fiat, John Elkann, che ha detto: è difficile avere andamenti ogni giorno del 6% come sta avvenendo, commentando il superamento di quota 11 euro. Beh, il mercato l'ha accontentato. Sì, per Fiat vale il discorso che facevamo per Pirelli: il titolo aveva guadagnato il 18% circa dal 7 ottobre e oggi sono scattate le prese di beneficio, il titolo ha perso il 2,45% chiudendo a 10,75 euro. Ricordiamo che ieri aveva superato la soglia degli 11 euro per la prima volta dal settembre del 2008, realizzi quindi anche sull'azionista di riferimento Exor. Su Fiat segnaliamo che comunque continuano i giudizi positivi delle banche d'affari dopo quel discusso report di qualche giorno fa da parte di Morgan Stanley. Oggi è stata Mediobanca a confermare l'outperform e alzare il target price a 14,5 euro dai precedenti 9,6. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Cori sulle 24 ore, il nostro GR. Poi parliamo del nuovo record storico dell'oro e anche del rafforzamento dell'euro in uno scenario, io lo dico anche qua, non vogliamo far partire gufi o altri animali, però le borse in crescita da inizio anno di oltre il 20%, con andamenti economici in cui questa forza della ripresa non si vede e con i beni rifugio, penso all'oro soprattutto, ai massimi storici. C'è qualcosa che personalmente non torna, ma io notoriamente non ci capisco molto. Minuti, seconda parte di Focus Economia con voi come sempre Sebastiano Barisoni. E allora, come promesso, restiamo sul tema del mercato, ma non tanto il mercato borsistico quanto anche gli altri mercati, partendo però da un presupposto. Da inizio anno tutte le borse, Milano ha fatto un più alla fine 24%, con oggi saremo un po' di meno, più 24%. Non parliamo poi dai minimi dell'8 marzo del 2009, lì siamo anche un 50-60%, ma diciamo da inizio anno più 24% Milano, Londra ha fatto più 20, l'America col Dow Jones più 12, ma il Nasdaq ha fatto più 35%. E di solito la borsa anticipa il ciclo economico, in realtà vediamo consumi ancora fermi. Ieri abbiamo commentato l'indice che misura quotidianamente il prezzo dei cargo delle 20 principali rotte commerciali al mondo per trasportare beni e merci dalla Cina all'America, dall'India all'Europa. Ebbene, questo indice, dopo essere crollato da 11.000 punti a 600 ed essere risalito a giugno a 4.000 punti, si chiama Baltic Dry Index, è ridisceso tra luglio e ottobre a 2.000 punti, cioè ha perso il 50% del suo valore, che vuol dire che costa il 50% in meno affittare un cargo per trasportare macchinari oppure beni. Anche questo vuol dire che il commercio mondiale non è che stia spingendo così tanto, infatti i prezzi del noleggio si abbassano. La domanda è allora, e ci è venuto in mente quanto si chiedeva durante la crisi del 29 Ettore Petrolini: ma cos'è questa crisi? Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Alla crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Lo abbiamo usato, Roberto Capezzolo, del Sole 24 Ore, come spunto per capire che cos'è questa crisi per la finanza, per chi investe ogni giorno sui flussi di capitale e quindi investe sulle borse ma anche su altre materie prime. Notizia di oggi: l'oro ha fatto un nuovo record a $1,068 l'oncia a Londra. Allora io vorrei capire banalmente, a parte l'ipotesi che l'oro entri nel paniere per comprare il petrolio, che mi sembra molto fantafinanza, l'oro è un bene rifugio? Allora, le borse sono a un più 25%, ma c'è qualcuno, immagino non il privato cittadino, che sta comprando massicciamente dosi di oro sulla carta, magari con contratti futures, per proteggersi. Proteggersi da cosa? Cioè, quanto è forte la componente speculativa in questo impennata record storico dell'oro, perché vorrebbe dire che qualcuno inizia a pararsi, e poi qui mi fermo. Roberto. Sì. Buongiorno a tutti. Ma io direi soprattutto che oltre a un effetto speculativo c'è un effetto protettivo, nel senso che questo è il momento adatto per comprare oro perché i tassi sono bassi e quindi il fatto che l'oro non stacchi cedolo non costituisce una remora, non costituisce un freno. L'altro aspetto è il dollaro. Ci si protegge contro il dollaro. Quando si compra oro in realtà si sta vendendo dollaro. Dollari naturalmente. E questo è il secondo aspetto. Il terzo aspetto è un po' di paura. Paura di un'inflazione futura che ancora non c'è e che forse non verrà, perché gli analisti sono divisi in questo. Gli economisti dicono, alcuni dicono il rischio vero prossimo venturo è la deflazione e non l'inflazione, altri dicono esattamente l'opposto. Però l'oro sembra proteggere quasi in entrambi i casi. E secondo me è un po' per questo che c'è questa corsa. Allora, sul fatto che i tassi siano bassi, cioè il denaro costa ai minimi storici, siamo tutti d'accordo, e questo sicuramente può rendere l'oro un'alternativa all'investimento, perché tanto le cedole non vengono staccate, ma i tassi sono bassissimi. No, l'altro aspetto invece mi preoccupa un po' di più, e anche qui, dollaro ai minimi. Allora, se il dollaro ai minimi vuol dire che si ritiene che l'America avrà un problema di debolezza strutturale nei prossimi anni e che dovrà tenere un dollaro basso per riuscire a migliorare la propria bilancia commerciale, e questo non mi sembra una gran bella notizia. Paura da cosa? Da eccesso di volatilità sui mercati? Cioè da un commercio mondiale che non riparte e una borsa che anticipa, ha già anticipato tutto? Io temo che i più furbi, visto che stanno piovendo report tutti i giorni, quando le banche iniziano a dare i report su obiettivi di prezzo al rialzo, io sempre sospetto che il momento in cui loro stanno vendendo gli investimenti fatti da loro. Allora, tu vedi in questo oro un'ombra sulla ripresa, sulla consistenza della ripresa futura? Ma un'ombra sì, anche se ricordiamo, l'oro non muove una massa di denaro così enorme come i titoli di Stato, le borse o persino i fondi strutturati. Quindi non la metterei in questi termini. Direi che il pubblico, anche il piccolo consumatore, il piccolo investitore, comincia a ritenere che quello che si è sempre detto, mettere in un bene rifugio il 5-10% dei propri asset, sia una cosa non così fuori luogo in un momento in cui la difficoltà esiste, si vede, è palpabile. Sì, e resta il rischio che i mercati stiano scontando un po' prima. Io dico rischio, lo dico anche a chi scrive al 349-238-6666, tutti ci auguriamo che invece questa ripresa della borsa del 20-30% sia dovuta al fatto che chi investe in borsa ha capito benissimo che la ripresa sarà forte. Temo invece che molti investitori con una liquidità che è enorme in giro, perché i tassi sono bassi e mettere denaro nei bot rende nulla, nei bot, nei T-bond, rende nulla, ci sia stata anche una voglia di tornare a investire in borsa per poi così fare media rispetto a perdite del 2008, di fine 2008, ma questo rischia di essere poi un fuoco di paglia sul futuro. Cioè una borsa che fa un più 20-22% sta scontando un'economia in netta ripresa nel 2010, vorremmo vederlo anche da altri indici. Resta la domanda di fondo che ci siamo posti: ma che cos'è a questo punto, al punto in cui siamo arrivati, questa crisi? Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Ah, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà. Noi ce l'auguriamo, i mercati ci scommettono, alcuni scrivono quando l'oro torna a salire vuol dire che i grandi investitori stanno vendendo in borsa e vogliono attirare il parco buoi. Speriamo che non sia assolutamente così. Grazie Roberto Capezzuoli. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. E allora, mentre noi, prometto a chi scrive che continueremo a interrogarci su cosa sia diventata questa crisi, sul mondo in cui vivono quelli che operano nella finanza e il mondo reale in cui vivono, non dico gli altri, ma sono i normali cittadini, nei consumi non vediamo questo boom, nelle vendite non vediamo questo boom, nel fatturato delle imprese non vediamo questo boom, l'unico posto in cui si vede il boom è la borsa. E la cosa non mi conforta, insomma, allarme della Banca d'Italia e soprattutto invito della Banca d'Italia che dice: adesso con le pensioni torniamo a ragionare di un aumento dell'età pensionabile. Occorre infatti riformare gli ammortizzatori sociali, dare più soldi alle pensioni minime, alla povertà dei pensionati, ha detto Mario Draghi oggi, governatore della Banca d'Italia. Chiaramente occorre intervenire sui meccanismi di protezione sociale. Ha riconosciuto che il ministro Sacconi ha messo in campo una quantità molto ampia e assolutamente adeguata di misure per superare la crisi, però per trovare le risorse e per assicurare anche le prestazioni di importo adeguato a chi andrà in pensione e a chi già lo è, occorre alzare l'età del pensionamento. La risposta del ministro Sacconi anche e soprattutto sull'invito a una riforma degli ammortizzatori sociali. Il governatore Draghi ha detto che la riforma è necessaria dopo la crisi. Noi non siamo ancora usciti dalla crisi, noi presto presenteremo una riforma consistente nello statuto dei lavori e nella razionalizzazione degli ammortizzatori sociali, ma questa riforma è inevitabilmente destinata ad un tempo meno straordinario rispetto a quello che oggi abbiamo, tempo nel quale dobbiamo utilizzare anche modalità straordinarie in termini di protezione del reddito, di durata di queste forme di protezione del reddito, di estensione di queste forme di protezione del reddito, che in condizioni, diciamo, di andamenti più normali delle economie non avrebbero giustificazione. La nostra riforma, quella realizzata con il provvedimento anticrisi, non può essere sottovalutata per il fatto che per fortuna non ha determinato forme di mobilitazione sociale. Essa ipotizza che già a valere dal prossimo anno si cominci a calcolare l'aumento dell'aspettativa di vita, in modo che alla fine del quinquennio, nel 2015, si possa determinare un aumento automatico dell'età di pensione corrispondente e proporzionale all'aumento dell'aspettativa di vita, e quindi successivamente ogni 5 anni vi sarà un analogo adeguamento se, come tutti dobbiamo sperare, l'aspettativa di vita continuerà a crescere. Quindi io credo che un meccanismo di questo genere, che è stato già apprezzato nell'ambito della Commissione europea che non determina impatto sociale negativo, ed è questa la ragione per cui non vi sono state per fortuna mobilitazioni critiche verso questa riforma, sia più che sufficiente, tanto più perché si combina con quanto previsto dai governi Dini e Prodi a proposito della taratura della prestazione attraverso i cosiddetti coefficienti di trasformazione. E quindi, tradotto, è un no, ha detto il ministro Sacconi, bastano le riforme già fatte, non occorre mettere mano a un'altra riforma delle pensioni, come risposta all'invito del governatore ad alzare l'età pensionabile. La pensa invece, come governatore della Banca d'Italia, la Confindustria, questa non è una novità, ma oggi ribadita da Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, la posizione degli industriali: occorre aumentare l'età pensionabile. È vero che ci sono meccanismi, come ricorda il ministro Sacconi, che entrano in funzione nel 2015, però si potrebbe anche pensare a farli entrare in vigore prima. E il ragionamento è posizione analoga a quella del vicepresidente di Confindustria con delega alle relazioni industriali, Alberto Bombassei, che ha detto: noi da anni diciamo le stesse cose che ha detto oggi il governatore Draghi, e cioè che l'età pensionabile va innalzata, è una misura necessaria. E infine la CGIL con Guglielmo Epifani ha detto che l'età pensionabile è solo un aspetto, serve un tavolo più complessivo tra le parti sociali e il governo. Ultimo tema che riusciamo a affrontare oggi, anche se abbiamo pochi minuti, è un tema che stiamo seguendo: il come difendere l'agricoltura italiana a livello europeo, a livello comunitario. Eh sì, perché lunedì prossimo ci sarà un Consiglio europeo dedicato proprio all'agricoltura, se ho ben capito, ma nel frattempo si rafforza l'asse italo-francese, che insomma Francia e Italia sono i due paesi sull'agricoltura più forti, più pesanti a livello europeo. Incontro oggi a Parigi tra il ministro delle politiche agricole Luca Zaia e il suo omologo francese Bruno Le Maire. Che cosa avete firmato? Lo chiedo direttamente al ministro Luca Zaia in collegamento con noi. Buonasera ministro. Buonasera dottor Barregioni. Allora, siete arrivati a un accordo per cui arriverà una piattaforma italo-francese, se ho ben capito anche di altri 20 paesi o 18 paesi, per arrivare a che cosa? Beh, innanzitutto il problema contingente, che è quello del latte, quindi un documento firmato oggi, diamo l'ultimo aggiornamento in diretta, di 21 paesi, si è aggiunta anche la Grecia all'ultimo minuto. Ma sicuramente chiedendo lunedì al commissario Fischer Boel misure straordinarie per il mercato, quindi chiediamo 300 milioni di euro da erogare subito agli stati membri per interventi diretti nel mercato lattiero caseario, e poi tutta una serie di iniziative tra le quali la possibilità di regolare le produzioni, visto e considerato che oggi elementi di regolazione delle produzioni non ce ne sono, piuttosto che la difesa dell'etichettatura e ovviamente l'aiuto privato all'ammasso di formaggi, che in soldoni significa andare a comprare il formaggio invenduto sul mercato con fondi comunitari. E quindi a questo punto immagino che il commissario europeo Fischer Boel dovrà prendere atto che 21 paesi, tra cui i paesi principali, chiedono che vengano sbloccati 300 milioni di euro a favore del settore lattiero caseario. E questo ci fa piacere, poi lunedì daremo la notizia in diretta quando arriverà il via libera definitivo, ma è importante una posizione unitaria, in primo luogo franco-italiana. Ministro Zaia, in una battuta, oggi gli agricoltori hanno segnalato di nuovo un crollo nei prezzi dei beni agricoli nei campi. Io non capisco cosa stia succedendo, ma continuano a scriverci moltissimi associati, sia alla Confagricoltura che alla Coldiretti che alla CIA: meno 12,5% rispetto all'anno prima a settembre. Beh, hanno assolutamente ragione, guardi, le posso portare l'esempio del comparto dell'ortofrutta, che accali anche del 60% rispetto alle susine, o il 33% rispetto alle mese, o il 50% rispetto alle pesche. Il grano, che oggi vale 16 euro il quintale, piuttosto che molti altri prodotti che non sto qui a citare, il latte uno per tutti. Ma direi che questo è un problema sicuramente nel quale hanno ragione, ma un problema che non dipende da un governo regionale, da un governo nazionale, è un problema che sta annoiando tutta l'Europa e il mondo intero, che è il problema della volatilità dei prezzi. È grave invece che ci sia qualcuno che su questi problemi faccia politica sulla testa dei nostri agricoltori, dando benefici zero e creando solo lotte tra poveri. Ma chi è? Mi dica il nome e cognome, se no non si capisce. Ma vede, io non voglio fare polemiche personali, ma anche oggi leggo un'agenzia di stampa dal Piemonte che parla ancora una volta di difficoltà del comparto lattiero caseario, ipotizzando che le normative nazionali creano i guai del mercato del latte. Cioè anche una persona che non sa nulla di comparto lattiero caseario sa in maniera anche se minimale che il comparto è in crisi in tutta Europa, e non a caso 27 ministri si incontrano due volte alla settimana a Bruxelles per risolvere il problema. Quindi non vendiamo agli agricoltori questo problema come un problema meramente italiano, perché questa è una grande bugia. E non vendiamo però i prodotti di agricoltura che sono in calo del 20, 15, 40% ai prezzi di una volta, perché lì qualcuno sta facendo il furbo, chiaramente non gli agricoltori, ministro, ma la distribuzione, i grossisti, insomma, hanno dei ricarichi che invece continuano a aumentare perché i prezzi allo scaffale sono tutto tranne che crollati. E nel salutare e ringraziare il ministro Luca Zaia, vi faccio anche riascoltare, visto che la volete, perché anche questa è una domanda del che cosa sia questa crisi, e chiudiamo con Ettore Petrolini e la sua canzone durante il crack degli anni e la depressione degli anni 30. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci sentiamo da domani dalle 17 in poi. Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Ah, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà.